Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini. E buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio 24. Si può fare strada, questo è il tema della puntata di oggi. Si può fare strada in tanti modi, si può intendere in tanti modi il fare strada. Si fa strada nella vita, ci si costruisce una carriera, per esempio, si fa strada come pellegrini diretti a Roma, magari a un luogo santo, si fa strada come viandanti, come ciclisti, come atleti. Questa è una strada vera, no? Fatta di sudore, fatta di cammino. La strada a me ha richiamato immediatamente il romanzo di Kerouac sulla strada, a voi magari altri romanzi, perché c'è tutta una letteratura sull'andare, sul partire, sui nuovi orizzonti. Io per esempio nei curriculum scrivevo sempre I want to expand my horizons. Mi sembrava molto bello, mi sembrava di dare di me il taglio migliore, no? Nel dire io ero pronta ad aprirmi a nuovi orizzonti. Non è che funzionasse tantissimo, però insomma c'era. E poi la strada che fanno le leggi fanno un iter, non a caso, no? Una strada che devono percorrere per arrivare all'approvazione. Poi strada si può fare nel campo dei diritti umani, nel campo sociale, nel campo culturale, si può fare strada come innovatori, no? Si può avere l'idea di un futuro migliore e si può combattere per arrivare là. Certo non basta però avere una strada, bisogna avere anche delle soddisfazioni via via che si va avanti. È come il navigatore va per mare ma perché vuole arrivare a un certo punto a una terra, vuole trovare qualche cosa al di là del mare. Allora si parte per arrivare, perché se non si arriva ci si perde, questa è tutta un'altra cosa. C'è poi una letteratura infinita anche sul perdersi, ma non è il nostro tema di puntata. Noi parliamo di fare strada. Voi che ne pensate? 800 24 0024 per le vostre telefonate, il centralino è sempre aperto, 349 238 6666 per i vostri messaggi, sms o whatsapp. E noi cominciamo con il primo ospite, perché questa puntata del sabato, come sapete, è dedicata in particolare alla sostenibilità, e allora vogliamo vedere quali obiettivi abbiamo già raggiunto nel nostro percorso di europei verso un'Europa più sostenibile con Enrico Brivio. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Ex portavoce della Commissione Europea per l'Ambiente, ora sempre presso la Direzione Ambiente della Commissione, si occupa dei rapporti con le altre istituzioni europee, quindi insomma hai un lungo storico e puoi farci un po' un excursus, no Enrico? Come siamo andati? Perché sennò sempre questi obiettivi altissimi al 2030, al 2050, sembra tutto lontano e mai raggiunto. Beh, molta strada si è fatta e diciamo che ci deve essere anche un certo orgoglio di noi europei di essere stati anche a livello globale all'avanguardia su certi in certi campi dello sviluppo sostenibile. Se pensiamo per esempio solo agli ultimi 15 anni, a quelli che erano gli obiettivi, cioè da quella strategia 20-20-20, cioè di il famoso 20... Horizon 2020. Sì, non quello. C'era anche quello che ha contribuito con i finanziamenti a molti progetti, ma cioè gli obiettivi di arrivare a un 20% di produzione di energie rinnovabili, a un risparmio del 20%, a un aumento dell'efficienza energetica del 25% e alla riduzione del gas serra, dei gas effetto serra che producono il surriscaldamento dell'atmosfera del 20%. Quindi erano questi tre obiettivi che furono 15 anni fa fissati, diciamo che sono stati praticamente raggiunti, nel senso che appunto sia nelle rinnovabili, nel risparmio energetico, nella riduzione del gas serra, questa strada è stata fatta, ma anche in tanti altri campi. Solo, insomma, il concetto di economia circolare che alcuni anni Per esempio, se ricordiamo l'Italia, no, di 10 anni fa e l'Italia di oggi, da un punto di vista dell'economia circolare, l'economia, diciamo, che parte dal rifiuto, no, è cambiata completamente. Tutti noi abbiamo nelle case, no, un sacco di scatole per raccogliere la carta, il vetro, e poi tutto questo viene avviato. Le percentuali sono molto buone ormai. Esattamente, e poi per esempio la qualità delle acque, si è passati da un 85% di siti che avevano delle acque eccellenti al 95%, e questo grazie anche all'applicazione di direttive che a volte possono costare un po' di fatica sia alle municipalità, ai comuni, alle aziende, però hanno migliorato indubbiamente la qualità dell'acqua, come delle nostre acque, delle spiagge. Poi per la qualità dell'aria, ovviamente ci troviamo in una situazione in cui molta strada resta da fare. Per questo, insomma, l'Europa è impegnata ora con questo Green Deal, è impegnata nel favorire l'economia verde, perché ci sono dei trend globali molto preoccupanti, sia sul fronte dell'inquinamento. C'è stato un rapporto di inquinamento dell'aria, il rapporto dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, che dice che ci sono ancora 400.000 morti premature dovute all'inquinamento dell'aria in Europa. E qui, scusami Enrico, se ti porto sul tema italiano, questa è una questione che riguarda molto il nostro paese. Cioè, noi abbiamo alcune aree particolarmente inquinate, non è una cosa lontana da noi, ecco. Soprattutto la zona dell'area padana, sia per motivi geografici, essendo tornata da montagne, sia per l'alta concentrazione di siti industriali, è senz'altro una delle aree purtroppo più inquinate, sia per quanto riguarda le polveri sottili, sia per quanto riguarda l'NOx. E così come preoccupa un altro fronte la perdita di biodiversità, cioè il fatto che l'ultimo rapporto del WWF di questa settimana sempre ha indicato come c'è stato un 68% del declino della popolazione animale dal 1970, e quindi anche qui c'è un impegno dell'Europa sul fronte della biodiversità, con una nuova strategia proprio per promuovere le aree protette e cercare di fermare questi trend. Ma diciamo che l'Europa a livello globale è all'avanguardia in questo, così come nella lotta al cambiamento climatico, in un momento in cui magari gli Stati Uniti non sono così trainanti. Sì, certo, non sono gli Stati Uniti che abbiamo visto con la presidenza Obama, questo sicuramente, con degli impegni molto diversi e degli obiettivi anche proprio palesemente diversi. Però siamo anche in un punto fondamentale, diciamo, della nostra storia, dovuto anche alla pandemia, che anche tu sei in smart working, per dire, no? Non sei in questo periodo, anche tu sei costretto a lavorare e vivere in un modo diverso rispetto al solito. E quindi possiamo andare, secondo me il timore è tornare indietro e quindi ritornare tutti in automobile, tipo, e quindi ricominciare a fare la vita di 20 anni fa, oppure fare il salto e andare avanti approfittando di questa situazione tremenda, però per cambiare le nostre, no, abitudini, ma soprattutto per costruire delle città, dei paesi diversi. Ma sì, questa è la grande scommessa. Tu sai che questa commissione aveva messo proprio il Green Deal, lo sviluppo dell'economia verde, come la priorità numero uno, cioè indirizzare sempre più l'economia verso lo sviluppo sostenibile sulla base appunto di quella strada che è stata fatta, come hai detto tu. E questa sarà la grande scommessa del cosiddetto recovery package, del pacchetto di finanziamenti per la ripresa, di cui i famosi 209 miliardi di cui anche beneficerà l'Italia, cioè fare in modo che questi finanziamenti siano indirizzati a tutte quelle attività sostenibili o digitali che comunque rientrano in questo nuovo concetto di economia che ha un futuro, perché c'è questa esigenza di garantire un equilibrio nello sviluppo delle risorse. È chiaro che il modello lineare di una economia che consuma, consuma, consuma non può funzionare, non ha futuro, per cui tutti questi finanziamenti devono essere indirizzati a attività che in qualche modo rientrano in questo concetto di economia circolare, in cui le risorse vengono il più possibile anche riutilizzate e vi sia un ampio spazio per il riciclaggio, insomma. Enrico, prima di dare spazio alla viabilità, che tra l'altro ci porta sul secondo tema che affronteremo, il fare strada in bicicletta, con la mobilità delle città, insomma, la strada che tu percorri nel fare queste relazioni tra le varie istituzioni europee, nel senso, è una strada di relazioni difficile, c'è una condivisione in Europa tra Europarlamento, Consiglio, Commissione su questi temi? Ma direi che c'è una generale percezione sia nelle istituzioni europee come del resto sempre più nei cittadini, no? Pensiamo per esempio anche solo alla plastica, cos'era un po' di anni fa, nel giro da quando si è varata la strategia della plastica europea, quanta più attenzione c'è ora nel riciclaggio, nel limitare l'usa e getta di oggetti di plastica che non va criminalizzata in sé, perché in alcuni usi anche sanitari è molto importante. E direi che senz'altro c'è questa percezione. Ovviamente ci sono paesi che hanno una transizione più difficile, no? Pensiamo alla Polonia, che è così basata sul carbon fossile e così altamente inquinante, e proprio per questo si sta varando anche il cosiddetto meccanismo di transizione, cioè dare dei finanziamenti a quei paesi che devono fare il salto più alto, più strada, che hanno ancora più strada da fare, diciamo, per usare il tema di oggi, insomma, sì. E quindi c'è senz'altro la percezione ormai che bisogna andare in questa direzione, però ovviamente c'è qualche paese più convinto di altri, però direi che le istituzioni europee sono impegnate, insomma, in questo Green Deal, in questo grande patto verde che diriga l'economia verso la sostenibilità, anche perché sono le attività che hanno più futuro, insomma, quelle basate sull'economia verde sono quelle che hanno meno risentito della crisi, nella consapevolezza che ovviamente è un passaggio che qualche paese deve fare in modo graduale, che non si può cambiare da un giorno all'altro, che non si possono per esempio abolire tutte le fonti di energia fossile da un giorno all'altro, e non si possono avere solo prodotti assolutamente non inquinanti, però c'è un impegno, molta strada è fatta e molta... E sì, che tante volte vengono presentate queste cose come se da domani cancelliamo tutto e insorgono ovviamente produttori, cittadini e così via. In realtà appunto sono sempre cose un po' per tappe. A proposito di tappe, tra poco parliamo di una corsa, diciamo così, in bicicletta a tappe. Viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle. Vabbè, l'avete capito, senz'altro stiamo per parlare di biciclette. Il tema della nostra puntata è: si può fare strada? Abbiamo detto di quanta strada comunque abbiamo già percorso per gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione Europea. Adesso parliamo di un'altra strada, ma teniamo in collegamento Enrico Brivio, che è con noi da Bruxelles e che presso la direzione ambiente della Commissione si occupa dei rapporti con le altre istituzioni europee, e parliamo di Vento Bici Tour. Quest'anno, o meglio, di Vento Bici Tour come spunto, perché oggi si parte per la prima tappa di Vento Bici Tour, che è questo tour appunto in bicicletta nato all'interno del Politecnico di Milano per la realizzazione di una ciclabile che unisca Venezia a Torino sull'argine del Po. Sono ormai diversi anni che noi seguiamo questo progetto, che si sta traducendo in realtà, perché sono iniziati i lavori a Milano lungo la sponda del Naviglio Pavese, perché bisogna connettere poi le grandi città della Lombardia, ma anche dell'Emilia Romagna, del Piemonte, del Veneto, con l'asta del Po, altrimenti chi percorre questa ciclabile poi non ha modo di raggiungere le bellissime città della Italia settentrionale. Dicevo, partiamo da questo tema di Vento per parlare di mobilità sostenibile in città, in bicicletta. E alla partenza di questo Vento Bici Tour 2020 c'è Marco Granelli, che è l'assessore mobilità e trasporti di Milano. Benvenuto, assessore. Sì, buongiorno, chiedo scusa. Ci sono capita, siete tutti lì, si vede che c'è un concentramento di cellulari che rendeva difficile raggiungere il suo, in particolare di cellulare, non lo so. Allora, state per partire, inaugurare con questa edizione di Vento 2020, poi c'è tutto un capitolo però che riguarda non tanto Vento quanto la città di Milano stessa, su cui voi state intervenendo. Da che cosa vogliamo iniziare, assessore? Beh, che chiaramente noi in questi giorni abbiamo un evento importante. Noi stiamo ripartendo con le città, da lunedì riaprono le scuole, ma sicuramente ci sarà un aumento di mobilità, e dobbiamo riuscire a garantire la mobilità dei cittadini e insieme la difesa dal Covid. Questa è la grande sfida a cui abbiamo lavorato almeno per 2 mesi. Abbiamo delle nuove regole per il trasporto pubblico, abbiamo un grande impegno di igienizzazione del trasporto pubblico per fare in modo che sia utilizzabile da più persone possibile, ma anche un grande impegno perché la bicicletta, le due ruote, oggi sono un elemento fondamentale per garantire il trasporto nelle città, il trasporto da casa al lavoro, da casa a scuola, e questo è fondamentale per aiutarci a vincere il Covid, ma anche a vincere la sfida del traffico e dell'inquinamento. Oggi noi abbiamo 22 chilometri di ciclabili in più realizzate in questa estate, che a breve diventeranno 35. Il progetto si chiama Strade Aperte, vero? Il progetto riguarda Strade Aperte. Strade Aperte, avete dovuto fare più ciclabili, fin qua ci siamo. Avete dovuto trasformare in ciclabile qualche cosa che non era ciclabile prima, ma che è diventato dedicato. Questa è un'attività che può fare qualunque città che metta la testa su un piano, che non deve mettere giù una striscia di niente, ce le ha già le strade. Certo, ce l'ha già, però dobbiamo trovare un nuovo equilibrio nelle strade. Se noi eravamo abituati a pensare alle strade solo per l'automobile, oggi dobbiamo pensare alle strade come luoghi dove devono convivere i pedoni, i ciclisti, i monopattini, le moto e le auto, tutti insieme, con più attenzione alle regole, meno velocità. In questo modo riusciamo a spostarci meglio e anche a vincere la sfida del traffico, dell'inquinamento, che è la sfida delle città. Le città stanno lavorando insieme su questo. Il governo ha messo risorse e regole nuove. E stiamo cambiando. Dovete cambiare la testa dei cittadini anche, però, perché devo dire che i cittadini ci stanno. Noi in questi mesi, in corso Buenos Aires, siamo passati al raddoppio dei ciclisti, siamo a 7.000 ciclisti giorno misurati con le telecamerine, dei veicoli che passano ogni giorno in una delle città più, nelle strade più importanti della nostra città, ormai il 25% sono bici, e questa è una rivoluzione che i cittadini stanno compiendo. Questo mi sembra molto, molto interessante. Abbiamo in collegamento ancora Enrico Brivio da Bruxelles, no? La fare strada insieme ai cittadini è chiaramente, no? È lì la rivoluzione, è lì colpire e arrivare a raggiungere il cuore del cittadino che ti segua. Sì, senz'altro gli spostamenti in bicicletta sono un importante fattore per aiutare ad avere città meno inquinate e anche a meno emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. È importante che le città siano attrezzate e penso ci sono anche finanziamenti europei disponibili per questo, proprio perché una mobilità pulita è uno dei grandi obiettivi europei e quindi ci sono anche dei finanziamenti per riciclare. Ora non so se questo progetto in particolare sia finanziato, però l'Europa sia anche in Lombardia stessa, nelle Marche, in Val d'Aosta, in varie regioni dà degli aiuti a progetti sulle piste ciclabili, perché insomma io che vivo qui in Belgio vicino all'Olanda so come le persone si muovono in bicicletta molto di più se ci sono piste ciclabili che permettono questi spostamenti in modo sicuro e dedicato. Insomma. Assessore, ne avete approfittato dei finanziamenti europei o avete fatto di tasca vostra? Allora, l'Avento ha utilizzato fondi europei e li sta ancora utilizzando proprio per il nostro tratto in città, i 4 chilometri. Siamo partiti proprio con i cantieri. Quindi il tratto sul Naviglio di cui si parla adesso, questo? Certo, proprio questo tratto da dove stiamo partendo adesso, ci sono i lavori in corso che sono iniziati, abbiamo 3 lotti, tutte e 3 cofinanziati dall'Unione Europea e questo è molto molto importante. Mentre il programma Strade Aperte per ora è finanziato da fondi nazionali per una piccola parte, il resto sono fondi dell'amministrazione comunale. Ok, quindi insomma poi il beneficio c'è. Adesso vedo alcuni messaggi che ci scrivono: se stiamo tutti in coda inquiniamo di più. È certo che se stiamo tutti in coda inquiniamo di più, intasiamo le vie, intasiamo appunto anche l'aria delle nostre città, come ci ricordava Enrico Brivio poco fa, assolutamente pessima in alcune aree geografiche d'Italia, purtroppo tra queste anche quella di Milano e comunque in generale tutta la Valle del Po. Io devo ringraziare i nostri ospiti, Assessore Granelli, allora buona pedalata, buon proseguimento di giornata, buon evento. E anche Enrico Brivio in collegamento con noi da Bruxelles, vi ringrazio molto per essere stati con noi. Enrico, buon proseguimento. Grazie, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori. E vi ricordo che dopo GR24 noi proseguiamo, parleremo ancora di Si può fare strada con tante altre diverse declinazioni, sicuramente anche quella più pura del trekking. Le vostre esperienze 824 0024 349 238 6666. Si può fare. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Si può fare strada e raggiungere diversi obiettivi. Noi abbiamo parlato in apertura di puntata degli obiettivi europei di sviluppo sostenibile, quindi di economia circolare, di raccolta, recupero, riciclo dei rifiuti. Abbiamo parlato di strada in bicicletta a Milano, in città, dopo il Covid, no? Per la ripresa. Abbiamo parlato di bicicletta lungo il Po e adesso ovviamente non possiamo che parlare di strada, quella che fanno i viandanti, quella che fanno i camminatori, quella che fanno i pellegrini, che fanno gli appassionati del trekking, no? È diventato molto di moda apparentemente. Lo fate anche voi, 349 238 6666 per le vostre esperienze, 800 24 0024 per le vostre telefonate. Intanto salutiamo anche Franco che ci ha scritto dall'Olanda e salutiamo il nostro prossimo ospite. Italo Clementi, buongiorno. Buongiorno. Vicepresidente di FederTrek, direttore di Trekking e Outdoor. Allora, davvero è tornata un po' questa moda di camminare? È cambiata la nostra mentalità? Andiamo a piedi? Facciamo strada a piedi? Sì, è cambiata molto, è cresciuta molto. E dietro alla voglia di camminare c'è la voglia di andare verso una realtà nuova, verso un mondo più solidale, più condiviso, è un mondo che camminando ti si apre dentro, cioè tu riscopri delle realtà al tuo interno che non sapevi, cioè affiorano. Ma io direi anche nel vedere così un po' quello che abbiamo, no, constatato leggendo qua e là, c'è anche una voglia di stare insieme in modo diverso. Prima chi camminava in montagna spesso da solo con l'idea della conquista. Brava. Adesso c'è un po' più la comunità. Sì, infatti prima era un discorso dove io arrivo primo in cima al monte con 50 kg di zaino sulla schiena. Questo è cambiato, ormai questi sono pochissimi. Ha cambiato a favore di un camminare vero, e non è solo il pellegrino che cammina, perché c'è anche questo aspetto, cioè se vogliamo c'è gente che lo fa perché vuol fare un pellegrinaggio proprio in senso cristiano, ma molti fanno il cammino per riscoprire se stessi, e molti vogliono farlo anche da soli, quindi va benissimo camminare in gruppo, perché però lo vogliono fare da sole, per provare quelle emozioni, quelle sensazioni, quelle cose, senza avere, diciamo, il disturbo, per potersi realmente immergere nei territori. I vantaggi sono tanti, perché il cammino ti dà la possibilità di salvezza e di cambiamento. Salvezza di cosa? Infatti, le avrei chiesto subito questo, salvezza di cosa? Un'Italia bellissima, ma con molti territori situati soprattutto all'interno sconosciuti, e quindi che stanno morendo, insomma. Allora il cammino che attraversa questi borghi, questi paesi, queste piccole frazioni a volte, è un po' la linfa per far rivivere all'inizio questa microeconomia, e poi magari si rinforza di più. Il cambiamento è il cambiamento nostro. Cioè chi affronta un cammino, breve o lungo che sia, perché poi insomma non è che tutti partono e fanno la francigena completamente, anche se tu scegli una tappa e ti fai quella tappa, è un momento in cui ti raccogli in te stesso, in senso proprio di analisi tua, no? Dici, ma insomma, ma perché dobbiamo sempre stare a fare correre? Segui il ritmo del tuo fiato, segui e così magari ti incanti da solo, ecco, esci dalla solita vita. E hai il piacere dell'incontro, quando incontri in un percorso una persona, che ne so, un piccolo agricoltore, un piccolissimo caseificio, eccetera, e ti fermi a chiacchierare, ti arricchisce dentro, arricchisce proprio il tuo animo in questo rapporto veramente umano, che è un grande tesoro, ha un grandissimo valore. Sì, questo si cerca di scoprire quello. Esatto, perché poi abbiamo vissuto anche il periodo delle maratone, ma nelle maratone si fa tanti chilometri, ma non ci se li gode, non si guarda, no? C'è stato la maratona dei quarantenni, no? Tutti i quarantenni a far maratone. E questo ovviamente sì, è una soddisfazione personale quando la porti a casa, però non vedi il paesaggio, non parli con le persone. Immagino voi adesso sulle vostre Trekking Outdoor cominciate a mettere invece dei percorsi un po' per tutti, magari dare dei suggerimenti diversi. Credo che cambiati i tempi anche per la rivista stessa. Sì, questo sì. Noi abbiamo sempre seguito come rivista, dico, questa filosofia, ma da sempre, da 30 anni, quando ancora nessuno ne parlava. perché abbiamo sempre creduto in un modo di un camminare come arricchimento e non come evento di capacità sportiva. Chi fa ad esempio la corsa, rispettabilissima, piacevole anche, quel che vuoi, però è concentrato sulla corsa, lì vuole arrivare possibilmente primo o in un tempo molto basso. Il cammino ti dà un'altra cosa, quindi la differenza c'è ed è notevole. Noi tra l'altro come Federtrek curiamo molto la parte, diciamo, sociale, di socializzazione. Abbiamo anche una manifestazione, ad esempio, che è Natura Senza Barriere, facciamo tutti gli anni a fine giugno, dove si invitano comuni, associazioni, eccetera, a portare, diciamo, persone con disabilità diverse a fare comunque un percorso, di cammino, un pezzo di sentiero, e tu vedessi quando queste persone partecipano accompagnate, tutto quello che vuoi, sono veramente felici, dicono ho passato una giornata molto bella. Questo te lo dicono anche i non vedenti. Beh, perché comunque si gode, certo, si gode, sentono l'ambiente, i profumi, certo. Cosa diciamo sotto i piedi, no? le cose. Quindi... Ma sentono anche l'esperienza nuova, chiunque, no? E sì. Poi anche quello è il piacere di fare qualcosa di diverso. Le devo chiedere un'ultima veramente battuta. Sì. Lei qual è il suo ultimo percorso che ha fatto, il suo ultimo cammino? Ma io in genere faccio dei cammini, diciamo, diversi da quelli più gettonati. Sono anche magari dei percorsi di trekking che però ti danno la possibilità. Io ad esempio in questo momento sono in Puglia. Sono in Puglia perché sono venuto giù qualche giorno, sia perché devo andare appunto a incontrare delle nostre associazioni, ma anche perché qua in Puglia ci sono dei sentieri. Ad esempio ce n'è uno che parte dal basso e arriva ad Ostuni, per citarne uno, però tu cammini in mezzo agli ulivi, sei sempre in mezzo agli ulivi, cioè, quindi voglio dire, a me sono questi i percorsi che piacciono, oppure percorsi che appunto attraversano borghi. Quindi mi pare di capire che il suo suggerimento sia: guardate dalla finestra, fatevi un po' anche ispirare, no? Vorrei andare a vedere quelle cime degli alberi laggiù. Soprattutto grazie. Fatevi stupire di fronte a queste bellezze. Italo Clementi, vicepresidente di Federtrek, direttore di Trekking Outdoor, come dicevamo, buona giornata e buona strada allora a questo punto. Grazie altrettanto a voi. Viabilità. Si può fare. Cronache da un paese migliore. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. And her mama believed every man could be free. So her mama got high. Anche come atleta si può fare strada, il tema della nostra puntata, 824 0024 oppure 349 238 6666 per i messaggi. Dicevo, si può fare strada come atleta, come persona, continuare poi a farla per altre persone come te, aiutando. La nostra ospite adesso è Najla Agder, un'atleta specializzata in una delle corse più difficili dell'atletica, i 3000 siepi, ma anche una donna di questo paese, o forse sospesa ancora tra tre paesi, chi lo sa, ce lo dirà lei. Ci sono molti articoli che troverete che narrano la sua storia. Fondamentalmente Najla arriva con la sua famiglia in Italia a 11 anni, nel 2005, entra nell'ambiente scolastico, si appassiona alla corsa, il padre non accetta che corra in pantaloncini corti, ma finché corre, diciamo, con la tuta va tutto bene. Però poi via via c'è un precipizio di cose, viene portata in Marocco, si cerca di imporle un matrimonio a tradimento, un matrimonio da cui lei fugge grazie all'allenatore di atletica qui in Italia, e poi di nuovo a casa con la famiglia, un incubo, minacce, violenze. Alla fine Najla viene estratta da questo contesto familiare pericoloso dopo un tentativo addirittura di compiere un gesto estremo. Vive in comunità, pian piano si ricostruisce una vita. Adesso è al telefono con noi. Najla, buongiorno. Buongiorno, ciao. Quanta strada che hai fatto? Ci diamo del tu, va bene? Certo, assolutamente. Hai fatto tanta strada, tanta ne farai ancora, perché insomma gli atleta, come atleta ne fai tantissime, 3000 siepi tra l'altro una disciplina durissima, io non so come sei arrivata a sceglierla, devo dire, come ci sei arrivata ai 3000? Beh, per la mia vita un po' impegnativa, ma con un po' di ostacoli, un po' lunga, quindi i 400 ostacoli non mi bastavano, li facevo all'inizio, ho detto... Andiamo con i 3000 siepi. È anche un po' una metafora, no? L'ostacolo per te, mi sembra di capire. Certo. Cioè l'ostacolo si affronta, non si aggira. Non si... Esatto. Tra l'altro quello delle siepi non si aggira, quello o l'affronti o l'affronti. L'affronto o vai giù te. Esatto. La tua vita è stata molto difficile, io l'ho riassunta un po' così, ma era corretto, no? Fondamentalmente, ho estratto sì, da varie biografie che ho trovato. Sì, giustissimo. Tutto così, tutto impegnativo, subito 3-2-1 durante il periodo dell'adolescenza, diciamo, più importante per me. Esatto, ma tu dove hai trovato, diciamo, la forza di andare avanti? C'è stato questo tentativo, va bene, questo cedimento di compiere un gesto estremo? Sì, però... esatto, per aiutarmi, cioè, diciamo che l'ho trovata nelle persone che mi circondavano, perché credevo tantissimo in loro e... Il coraggio l'ho avuto veramente così, perché avevo da una parte la mia famiglia e dall'altra parte tutte le persone che mi conoscevano e basta. Famiglia che poi all'inizio non ti ha mollato, nel senso che tu hai cercato di liberarti, diciamo così, sì, di loro, sì. Ma loro ti hanno inseguito, ti inseguono ancora in qualche maniera per adesso, riportarti con sé? Adesso no, adesso si è calmato tutto, perché comunque sono cambiate tante cose e soprattutto loro sono rientrati in Libia, cioè che mio papà è della Libia. E adesso va tutto bene, diciamo che di strada ne ho fatta insieme anche a loro. Adesso si va avanti, diciamo. Hai paura di fare questa strada, diciamo così, da sola, senza una famiglia? Non so, immagino alla tua età tanti si sentano un po'... Sì, diciamo che vabbè, affronto questa cosa tutti i giorni, anche perché abitando da sola tutti i giorni faccio i conti con questa mia scelta di fare strada, di scegliere la strada della felicità. Ogni giorno che apro gli occhi mi trovo un po' da sola, così, però sono sicura che la mia felicità arriverà e sta arrivando, e piano piano me la guadagnerò da sola grazie alle persone che incontro nella mia strada, nel mio cammino. Ecco. Nel tuo cammino ci sono tantissime cose, ho visto che tu fai una serie di cose al di là dell'allenarti appunto per le gare. Ma fai decine di altre cose che ti mettono in contatto con ragazzi giovani, magari anche loro problematici, con situazioni sì, difficili. Sì. Ho scelto di fare questo, da quando diciamo ho fatto Instagram, ho deciso di dedicarmi agli altri, perché tante persone che sono anche dedicate a me mi hanno aiutato, quindi ho deciso di andare a lavorare con i disabili, portare la corsa, che è la mia passione, un po' dappertutto, sia alle ragazze giovani che adesso dai 20 anni in su è difficile che facciano sport, sia ai disabili, sia ai non vedenti, sia al CPS dell'Inguarda, quindi lavoro un po' dappertutto per poter portare la corsa, per aiutare chi ha bisogno. Sì, sì, la corsa è terapeutica secondo te? Sì, tantissimo, io ho fatto tutto l'anno scorso a lavorare con veramente persone che, faccio l'esempio del CPS, facevamo dei giochi di logica, dei giochi così, ed era bellissimo perché attraverso lo sport ospiti che superavano veramente le loro difficoltà, ed è stato per me molto bello, molto significativo, e continuerò a farlo anche quest'anno. Poi anche con le ragazze giovani, con le Flying Girls Academy, è stato uno dei progetti, una della crew più bella che mi potevo creare, e mi dà tantissime soddisfazioni. Quindi sei diventata da allieva, sei diventata anche maestra. Ma per te, ai tempi diciamo più cupi, quando eri con la famiglia, la corsa cos'era? Che lì libertà, un momento fuga? Di sfogo, di libertà, anche perché con tutte le difficoltà che aveva la mia famiglia, non andavamo in vacanza, facevamo tutto, quindi grazie anche all'atletica era un momento di... Cioè, la mia vacanza erano i raduni di atletica, il mio uscire, andare in altri posti. Io ho girato tantissimo, cioè per me andare a Bergamo era andare in un altro posto, andare in gita, andare in vacanza, era bellissimo. Beh, lo sport è anche questo, è anche dare a ragazzi la possibilità di girare, di conoscere, di vedere, no, altre sì, realtà. Io... Questo lo è per tutti, lo è stata a maggior ragione per te, direi. Sì. Tu nel frattempo immagino che oltre allo sport, non so, frequentassi la scuola, avevi le tue amicizie qua. Sì, avevo tutto, mi sono diciamo ben inserita in Italia, cioè, veramente io è un paese che con tutte le difficoltà ovviamente che ho trovato, che sono trovata ad affrontare un po' da sola, è un paese che ammiro tantissimo, per me cioè io mi sento italiana anche se dentro di me c'è però un po' di passaporto di ancora di forse non lo sei? Sono apolide. Sei apolide perché avevo letto anche di queste difficoltà che tu hai avuto nell'andare all'estero a gareggiare. Esatto. Che ti hanno rispedito indietro perché avevi un documento libico all'epoca. Sì, esatto, avevo ancora il passaporto vecchio di Gheddafi, quindi non si poteva andare, ma ancora adesso non posso andare in tanti posti, però come dico io andiamo avanti. Cioè tu non puoi andare in tanti posti perché non hai un documento né italiano, da apolide. Esatto. non è riconosciuto come documento? Non, per esempio in Inghilterra no, in altri, cioè non posso uscire dall'Europa per ora, però sono fiduciosa e dopo 15 anni barra 16 in Italia spero di poter ottenere la cittadinanza italiana, però prima... Cioè, ma tu hai voglia diciamo di vedere gli Stati certo, Uniti? Al di là. Sì, ma io il primo posto dove andrò lì. Perché lì? Perché lì? Perché voglio andare lì, perché per me è stata un... Anche perché quando ti prepara una gara importante, ed era la Coppa Europa, per me è stato difficile perché mi sono preparata un anno per fare quella gara e poi quando sono arrivata quel giorno lì non potevo andarci. E non si sapeva prima, non si è scoperto prima? No. E non c'è un documento, un passaporto sportivo, qualcosa che ti potevo lasciare passare? Niente, ma poi non c'era il motivo per cui mi avessero rifiutato il visto. E quindi un po' è stata per me una sconfitta che sto cercando di superare giorno per giorno, perché non l'ho ancora superata del tutto finché non andrò a Birmingham a fare qualche gara. Certo, quindi puoi andare in tutta Europa eccetto la Gran Bretagna, questo già da prima, non è una questione di Brexit, non puoi andare fuori dall'Europa, potresti andare in Libia? No, Libia no, anche perché ha una condanna. Ma tu c'hai la gabbia addosso, io me la sentirei, comunque anche se l'Europa è grande, un po' di gabbia non te la senti? Sì, forse non tanto, ma l'Europa è grande, ma penso, cioè io già dico l'Italia, cioè l'Europa si trova, però io dico già l'Italia, posso andare da un sacco di posti e tanti si riconosceranno in questa cosa perché quest'anno, quest'estate, penso che la maggior parte... le persone abbia fatto le vacanze in Italia, ha scoperto un sacco di posti nuovi. Io diciamo che l'ho presa all'inizio così, perché all'inizio non potevo neanche uscire dall'Italia con la richiesta di asilo politico. E quindi ho scoperto l'Italia. E quindi secondo te il posto più bello d'Italia qual è? Il posto più bello d'Italia? Oh mamma, dico Lampedusa, rideranno tutti. No, davvero? No, vabbè, ti tiri addosso però le battutacce. Vabbè, comunque ti è piaciuta Lampedusa? Sì, per me Lampedusa è uno dei posti più belli veramente d'Italia. Ci sono stata quest'estate e per me è stata veramente una scoperta bellissima di posti paradisiaci, diciamo top. Si può correre, è bellissima. Beh, è anche bella piattona poi in effetti, sì. C'è quella giusta pendenza insomma che serve per allenarsi, questo senza sì, dubbio. Vabbè, mi viene una battuta di quelle, una domanda di quelle orribili, ma tu ricorda la Libia? Un po' sì, tante cose sì. E per te l'aria di casa qual è? Cioè io per esempio, se chiudo gli occhi, penso all'area di casa, mi viene in mente la pineta della Maremma, perché lì sono nata. Allora, vabbè, io l'area di casa per me, vabbè, è sempre l'area di casa, nel senso, comunque l'area della Libia, perché sono stata lì 11 anni e un po' te lo porti dietro. Ed è una cosa importantissima questa, per questo quando io dico, beh, io mi sento italiana, non lo sono, però io mi sento italiana anche perché quando penso, quando parlo con le altre persone, io penso in italiano, quando devo contare, non è che sto lì a contare, cioè conto in italiano, i calcoli li faccio in italiano, quindi io personalmente mi sento in italiana, poi se le altre persone non mi definiscono tale, quello è un problema loro, e questo è un messaggio che vorrei dare a tutte le persone che magari si sentono tutte queste cose di razzismo addosso, cioè, no. Andiamo avanti, certo, senz'altro, su questo non c'è dubbio. Se io conto in italiano, dico ti amo in italiano, questo mi viene spontaneo, insomma sono italiano dentro come tutti gli altri, al di là della mia origine o del luogo in cui sono nato, che appunto può essere anche casuale per un qualunque per una qualunque persona, no? Uno si trova negli Stati Uniti, nasce negli Stati Uniti, ma non è che quel luogo di nascita cambi qualcosa. Najla, non lo so, vienici a trovare quando vuoi, visto che sei vicina, ci farà molto piacere. Ti porto anche i saluti di molti ascoltatori che hanno scritto e ti ringraziano, insomma. Grazie. In bocca al lupo per tutto. Buona strada, grazie, buona corsa. 3000. Grazie. Gli ostacoli si affrontano, diciamo che chiudiamo così, gli ostacoli si affrontano, non si scartano. Najla Akhder, una piccola pausa, tra poco. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. È sempre il tema della nostra puntata. Si può fare strada in tanti modi. Abbiamo sentito Najla Akhder poco fa. Si può fare strada anche nel conoscere e accogliere un malato e una malattia. La campagna Non chiamatemi morbo, storie di resistenza al Parkinson, punta proprio a questo, sradicare stereotipi e pregiudizi con tanti strumenti, ma in particolare uno nuovo, una mostra fotografica parlante. Le foto sono di Giovanni Diffidenti, le voci di Claudio Bisio e Lella Costa, Mr. e Mrs. Parkinson. Lella Costa è in collegamento con noi, buongiorno. Buongiorno a voi. Noi in redazione, come tutti gli ascoltatori, da questo momento in poi possono andare sul sito Non chiamatemi morbo, storia di resistenza al Parkinson, e trovare queste pillole che voi avete portato al pubblico. Sono bellissime, date voce ai malati, date voce a quello, fate da tramite. Per una volta voi non avete interpretato il malato, ma gli avete dato voce, molto diverso. Ma in realtà grazie, sono anch'io convinta, che penso di poter parlare anche a nome di Claudio, che sia davvero un'operazione complessivamente molto bella, molto pensata, molto ragionata, sia con medici e specialisti, sia appunto con pazienti. In realtà io e Claudio interpretiamo il morbo, Mr. Parkinson e Mrs. Parkinson, e ci siamo molto interrogati su quanto fosse giusto dare una voce e quindi in qualche modo quasi un'intenzionalità, no? Mentre sappiamo bene che purtroppo, per fortuna, le malattie non hanno non c'è del dolo nel loro colpire le persone. Credo che abbiamo trovato una bella misura, anche abbastanza lieve, è però molto precisa, ma proprio perché sono bellissime le esperienze dei malati, quindi noi praticamente da morbo raccontiamo le storie di quelli che ci resistono, che sono riusciti comunque a dare un senso e a continuare a vivere una vita nonostante la presenza di questo che non vorremmo più venisse chiamato morbo, ma trovasse un altro altri modi proprio per non avere questa... Perché il morbo non è uno, ma sono morbi, cioè ognuno si declina, ognuno è diverso. E spesso, ahimè, c'è questa... perché per esempio Bruno Lauzi appunto lo prendeva a cazzotti, per esempio il suo Parkinson, lo affrontava, gli dava un nome, perché sembra quasi che ci sia una particolare cattiveria. Il morbo, la malattia, spesso colpisce le persone proprio non tanto dove sono più fragili, ma dove la loro vita si manifesta al meglio, nelle loro abilità, nelle loro attitudini, nei loro sogni, nelle loro passioni. E questa è la parte ancora più difficile, trovare altri modi per continuare a vivere con quella dignità e quella interezza di cui ogni vita, insomma, non dovrebbe mai essere priva. Quindi è veramente, credo, un bel modo per confrontarsi non soltanto con le declinazioni di questa malattia in particolare, ma un po' in generale col nostro rapporto con le malattie, e poi per informare sulla ricerca, sulle cure, ma soprattutto sulla rete che spesso, per fortuna, si crea intorno a questi disagi, a queste sofferenze, a queste problematiche, e che poi diventa la rete di sicurezza a cui le persone si possono rivolgere, in cui possono trovare forza e condivisione, perché poi è questo che dobbiamo imparare a fare. E direi che tutto quello che ci sta capitando in questo tempo sbandato ci dice esattamente questo, no? Che dobbiamo in ogni caso provare a condividere. Sì, e resistere. Adesso è una lezione di resistenza, anche questi monologhi danno anche una lezione di resistenza, mi pare. Sicuramente di resistenza, di resilienza, di intelligenza, proprio nel senso dello sforzo di capire quello che succede, di non chiudersi, perché questa è la lezione poi importante, che la malattia è comunque uno stigma, ce ne sono alcune che lo sono un po' di più, per esempio la cosiddetta malattia mentale in tutte le sue declinazioni. Parkinson ha questa carogneria in più, no? Che è una malattia che ti colpisce fisicamente, ma che ti atterra proprio psicologicamente e emotivamente, e quindi a volte diventa molto difficile pensare che si possa condividere, si possa mettere in comune, e che l'aiuto possa venirti oltre che dalla ricerca, dalla scienza, dalla medicina, proprio dall'esperienza degli altri. In questo senso credo che, e poi la mostra è molto bella perché le fotografie di Giovanni di Studenti, che io conosco da anni per avere visto altre campagne fatte da lui, altre sue foto, è veramente bella, è bella che sia al Piccolo Teatro, quindi nel cuore della città, ma anche in un luogo che è legato alla cultura, alle storie, anche lì alla condivisione, addirittura allo spettacolo. Quindi sì, credo che sia, lo dico con orgoglio, perché mi sembra che di avere contribuito insieme a Claudio a fare una bella cosa. Adesso io, così, da resistenza a resistenza, noi avevamo parlato qui a Si può fare a suo tempo con Carlin Petrini, quando lei il 25 sì. aprile aveva fatto, no, quella. E mi sembra che molta parte della sua artistica, sua ultimamente, sia dedicata a questo, al resistere, alla comunità, allo stare insieme. È una scelta personale, direi. Ma sì, ma è sempre stata un po', credo, spero, la caratteristica e anche la mia fortuna. A me non passerebbe mai per la testa di fare una cosa solo perché è bella. Va benissimo che altri lo facciano, ma per me, come dire, forma e sostanza devono sempre coincidere, e quindi mi sembra naturale poi occuparmi di cose che ci riguardino tutti, anche perché se hai la pretesa, a volte la presunzione, di salire su un palco interessare il pubblico raccontandogli delle storie, bisogna che tu sappia quali sono le storie che poi attraversano la vita delle persone, no? Quindi anche un'azione di conoscenza, dice lei, per sì, me, formazione sì. come attrice. Sicuramente, anche se penso che quando vai su un palcoscenico quello che devi fare è un bello spettacolo complessivamente. Metterci dei contenuti, ripeto, è facoltativo, ma per me invece no, per me è indispensabile, per me è davvero un progetto che non si può scindere, ma insisto, è il mio, non vuol dire che altri non facciano cose magnifiche, anche se su lunghezze d'onda diverse dalle mie. Io cerco di mantenere quella coerenza lì, ma l'avrei fatto comunque qualunque mestiere mi fosse dato in sorte di fare, per fortuna è stato questo. Sì, adesso non c'entra molto in tutta questa vicenda. Lei ha rilasciato a me la mia prima intervista, ma dai, ma che bella 2 milioni di anni fa in un teatro, vabbè. No, non diciamo 2 milioni di anni no, fa. Lo dico così per non quantificare precisamente nei miei confronti. E invece ieri era a Montegrotto Terme per il pranzo di Babette, anche sì, questa è una scelta che rientra nei suoi canoni, direi proprio precisamente. Questo sicuramente, ma la cosa, lo stavo scrivendo adesso alla mia agente, perché ieri sera ovviamente non c'erano via intorno a me, è stata una cosa straordinariamente emozionante, perché in una piazza di un paese come Montegrotto Terme, che appunto è un luogo termale che sta vivendo, come tantissimi luoghi turistici, diciamo una crisi molto, molto pesante, che ci fosse questa piazza piena, compatibilmente appunto con le norme, le limitazioni del caso, però eravamo all'aperto, quindi c'era più agio, ascoltare quello che secondo me è uno dei racconti lunghi più straordinari della storia della letteratura, però è un racconto, cioè pura voce. C'è stato anche un film molto amato, bellissimo, che parla, tra l'altro senza però farlo diventare un elemento di attualità o di dibattito e di scontro, perché poi parla di accoglienza, parla di confronto con culture, lingue, religioni diverse, parla di una storia di donne. Parla anche di una scelta di vivere in un altro luogo, come abbiamo prima poco fa parlato con Najla Kder, che dalla Libia ormai sente l'Italia come casa sua, no? Quindi certo, può scegliere un'altra patria, diciamo. Sì, scegliere forzatamente, perché Babette è in fuga dalla Francia, certo, post-comune di Parigi, quindi dalla Restaurazione, e quindi scappa e si presenta in un paese straniero di cui non sa una lingua, in casa di due sorelle luterane, lei cattolica, quindi vissuta come papista, e queste donne aprono la loro casa e la loro vita, in qualche modo il loro cuore a questa donna, che poi decide di ringraziarle preparando questo straordinario pranzo per una ricorrenza familiare e anche sociale. E che poi ci sia stato ascoltato con un'attenzione veramente, con degli applausi finali, e poi che tantissime, praticamente tutti, abbiano poi sentito il bisogno di venirmi a ringraziare e per dirmi ci porteremo dietro questo momento, questa serata per molto tempo. A me ovviamente allarga il cuore, ma non soltanto come interprete, proprio come cittadina di questo paese, come persona. Io continuo a pensare che nella relazione tra persone viventi e nello scambio e nella condivisione ci sia una delle poche, e nella bellezza condivisa, insomma, ci sia una delle poche chance che abbiamo di farcela, ecco. Allora, è una possibilità di fare strada. Adesso noi oggi stiamo parlando del fare strada, certo, insieme, ecco, anche questo nella condivisione, nella bellezza, negli ideali che uno può avere con gli altri. Voglio ricordare in chiusura di questo collegamento, abbiamo parlato di Non chiamatemi morbo, storia di resistenza al Parkinson. Io direi, Lella Costa, ringraziamo anche Gian Gimilesi per lo, certo, sforzo che ha messo, no, in questa. Beh, e la passione anche, che anche lì è fondamentale, perché la senti, è qualcosa di che arriva molto, no? Al di là della comunicazione, dell'organizzazione, c'è quello che poi fa la differenza. Presidente della Confederazione Parkinson Italia, ricordo, vicepresidente della Fondazione Pubblicità Progresso, Lella Costa. Allora, buon proseguimento, buona, grazie, giornata. Comunque io il 22 ci sarò e spero che ci sarete in tanti. E noi senz'altro, se possibile, viste le ridotte capacità ormai, no? Che dobbiamo rispettare, certo, assistere agli spettacoli, ma molto volentieri. Grazie ancora, adesso abbiamo la viabilità e poi torniamo sull'ultimo Si può fare in strada insieme, magari mangiando qualche cosina qua e là, speluzzicando. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Camminare vuol dire respirare, vuol dire andare a tempo, che ora è tempo di tornare a ripensare un po' a noi. Aspettare il momento esatto. Si può fare strada per mangiare, per esempio, si può fare strada per conoscere una cultura e magari speluzzicare qualcosa. Abbiamo parlato poco fa del pranzo di Babette e una fedele ascoltatrice, si chiama Betta, dice: sì, ma con che soldi Babette aveva pagato quel pranzo? Beh, quei soldi che aveva vinto, certo, se li poteva tenere per sé, li ha impiegati tutti per quel famoso pranzo e poi è rimasta là dove era. Ne abbiamo parlato poco fa con Lella Costa. Diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è Lorenzo Biaggiarelli, food blogger. Buongiorno. Buongiorno. Come scrivi tu, nato a Cremona, cresciuto a Senigallia, che ama molto di più, poi ovviamente in giro per il mondo. Quest'anno meno mondo, più Italia e in particolare il Molise. Il Molise, vabbè, ma il Molise è un mondo all'interno dell'Italia, cioè è come la terra di mezzo del Signore degli Anelli, praticamente. Questa cosa fatata è anche un po' leggendaria. Allora, vabbè, no? La battuta solita vorrebbe che io chiedessi: allora esiste veramente? No, chiaro che esiste, lo sappiamo, ma lo conosciamo poco, specialmente da un punto di vista culinario, magari pochissimo. Conosciamo qualche eccellenza. Sì, ma ne conosciamo in realtà veramente poche, anche perché il Molise, che ne ha tantissime, non ha fatto lo stesso marketing di altre regioni. Cioè, se pensiamo che in Puglia, no, in qualsiasi ristorante tu vada, di primo c'è sempre l'orecchietta col pomodoro e il cacio ricotta, no? Mm-hmm. Cioè, oramai è quasi, non so come dirti, un panino del fast food, cioè lo trovi ovunque. E ognuno la fa a suo modo, ma la ricetta no, è sempre quella. Invece il Molise, secondo me, fortunatamente non ha subito questo processo, vuoi perché ovviamente non ha tutto questo turismo come la vicina Puglia, e quindi è veramente libero da un sacco di cliché e si mangia da paura proprio. Si mangia tanto o si mangia buono? Perché sono due cose diverse. Si mangia tanto e si mangia buono. Guarda, ho scoperto che si può coniugare la quantità e la qualità, come se poi in Italia fosse difficile, non fraintendermi, però è veramente sorprendente proprio questa cosa, cioè pochissime ricette della tradizione, prodotti tipici, ma che trovi nel luogo di produzione, cioè la stracciata di Agnone, che è un formaggio incredibile, la trovi ad Agnone, difficilmente poi la trovi fuori, o la signora di Conca Casale, che è un salame fatto solo da le signore anziane di questo piccolo comune di 200 abitanti, cioè restano i loro luoghi di nascita, e quindi tu li devi fisicamente andare a scoprire, cioè non basta andare in una gastronomia e prendere di tutto un po'. Questo rende il viaggio gastronomico proprio un vero viaggio. Devi prendere la macchina, anche perché i collegamenti funzionano così, e andare a scoprirlo in prima persona. Ah, quindi dici prima di tutto essere automuniti, come si diceva un tempo, perché sì, purtroppo sì, un po' fuori dalle rotte tradizionali, sì, quindi non c'è molto, forse non ci sono collegamenti così facili, però no. Insomma, però vale la pena, questo dal tuo punto di vista vale senz'altro la pena. E per te il cibo cioè nasce prima la passione di viaggiare o prima la passione di assaggiare, speruzzicare, conoscere? Io la risposta la immagino attraverso il tuo blog, però raccontacelo un po'. Sono due cose simultanee, diciamo, e ovviamente nasce prima la passione di mangiare, perché altrimenti non si giustificherebbero i 60 kg che pesavo già quando avevo 10 anni ed ero alto un metro e un tappo, come si dice in dialetto. Però poi la scoperta del viaggio in realtà ha solo portato questa passione a questo punto quanto mai letteralmente viscerale in un'altra dimensione, che è quella del tempo, no? Tu sai che la forza di è un concetto fisico che si misura con la forza dello spostamento. Adesso non sono un fisico, quindi avrai sicuramente capito cosa voglio intendere, cioè il movimento è ciò che sostanzialmente realizza, no, è l'esistenza di una cosa, come gli atomi che si muovono. E anche per viaggiare, anche per mangiare bisogna spostarsi, intanto bisogna spostare la forchetta dal piatto alla bocca, ma poi per mangiare cose diverse, per capire quello che stai mangiando devi spostarti, perché il cibo si muove come si muove la gente, quindi anche tu devi muoverti per inseguirlo, e poi è anche comodo perché così perdi peso nel frattempo muovendoti. Ti fai un po' di trekking, certo, in mezzo tra una salsiccia e l'altra. Puoi prepararti al pranzo. Ma senti, però il cibo, quando tu lo scopri, no? Scopri in qualche cosa, poi mettiamo pure la salsiccia, qualcosa, una delicatessen del luogo, qualunque certo luogo sia nel mondo, di solito quando te la riporti a casa non è mai uguale. Non è mai uguale, sì, si dice per l'aria, si dice per il viaggio, si dice per... Io credo per l'ambiente stesso e la testa che hai nel momento in cui l'assaggi. Ma certo, il contesto. Comunque se uno pensa che alla fine, negli ultimi 20 anni, pensa solo a quanto è stato diventato importante l'impiattamento, per esempio, no? Cioè la sensazione visiva, che tu acquisisci prima e contemporaneamente al pasto, diciamo, la sensazione visiva è anche tutto quello che sta oltre al piatto, no? Cioè il luogo in cui sei, se sei in Canada, l'ho mangiato in montagna, hai proprio il quinto senso che è stimolato in maniera diversa, che se fossi al mare con 45 gradi all'ombra, quindi partecipa anche questo, però sai, la prima cosa è sicuramente l'emozione, cioè è un po' una cosa da nerd, quindi non fraintendermi, cioè non siamo tutti così, però l'emozione di mangiare proprio quella cosa lì dove è nata o dove è cresciuta o dove è diventata grande, cioè la pampanella, per tornare in Molise, di San Martino in Pensilis, mangiata a San Martino in Pensilis, è tutta un'altra cosa, insomma. Sì, io la caponatina, adesso prima abbiamo parlato di Lampedusa, ma la caponatina sulla spiaggia di Lampedusa è capito. La caponatina della spiaggia di Lampedusa, non c'è verso, la stessa cuoca trapiantata a Milano non mi produce lo stesso effetto, ma proprio sensoriale, emozionale. Ma sì, perché non è merito tuo, non è merito del cuoco, è merito di quello che lo circonda, cioè il piatto è merito del cuoco, ma quello che lo circonda è chiaro che non te lo puoi inventare. In realtà i molisani molto spesso se lo sono inventato, perché ci sono dei ristoranti incredibili dove sorgeva solo, dove prima c'era solo Natura, siamo stati in un agriturismo tra Salcito e Trivento e Pietracupa, insomma questa zona tra il Basso e l'Alto Molise, per andare a Isernia, un'altra località leggendaria, nel senso che non si sa se esiste o meno, no, scherzo, esiste, è questo agriturismo costruito ai piedi di questa roccia, non so se hai presente come si chiama la Turchia, la Cappadocia, con queste rocce che svettano verso il cielo, che salgono su dal niente, dalla pianura, abitate fin dalla preistoria, veramente imponente, davanti l'agriturismo dove si cucinano gli arrosticini o l'agnello sulla brace, tu guardi questa cosa, capisci che ecco, il contesto in Molise è veramente qualcosa di inimmaginabile. Senti, tu mi hai già risposto, perché però notavo che tu parli sempre al plurale, quindi non viaggi da solo. No, viaggio sempre, quasi sempre con la mia compagna, quest'anno c'era anche suo figlio Leon e c'era anche il nostro cane Godzilla, che quindi ha potuto anche lui toccare con mano i croccantini molisani. I croccantini molisani saranno diversissimi dai croccantini degli altri. Beh, ovviamente, sì, sono i croccantini, non lo so. Al profumo di Molise, certo, come no. No, era per capire se tu sei un esploratore solitario, non voglio farmi gli affari da tua famiglia, ma no, se sei un esploratore solitario o se preferisci appunto che fare un'esperienza condivisa di viaggio di questo tipo, ecco. No, guarda, da 5 anni a questa parte, da quando compio con la mia compagna, è sempre condivisa, ma grazie a Dio, nel senso che se fossi da solo morirei al terzo giorno di indigestione o di qualche malattia. Ah, ti controllano, quindi. Contaminazione. Beh sì, diciamo che vengo un pelino calmierato, ma perché è un limite, è come Aldo, no, che dice finisco di mangiare la peperonata e arrivo, la peperonata alle 9 di mattino, cioè io sono un po' quel mondo lì, capito? alla fine poi c'è il rischio, ecco. È meglio avere uno con controllore, va bene, da qualche parte, o almeno un Alka-Seltzer pronta, insomma, al momento esatto. Opportuno. Uno dei due. Lorenzo, allora, prossimo viaggio ce lo anticipi oppure è segreto ancora? Non ne ho idea, no, non è segreto perché non lo so, non ne ho idea. Io ho alcune mete che mi piacerebbe visitare quest'anno, anche sempre un po' fuori dalle rotte, anche gastronomiche, ma che in realtà hanno un mondo, cioè penso al Friuli, per dirti. Quindi alla regione della Carnia, tutta questa regione insomma con influenze etniche tecnicamente, cioè influenze slave, influenze austriache, poi vorrei andare nel Cilento, mi piacerebbe andare molto in Campania perché la conosco poco, mi piacerebbe andare in Irpinia. Ti piacciono troppi posti, ho capito, troppi posti, però io ti devo assolutamente salutare, senti c'è già la base in sottofondo, Lorenzo Biaggiorelli, grazie molte per essere stato con noi, food blogger, abbiamo capito che si può fare strada davvero in tante maniere diverse, l'importante io direi è avere degli obiettivi, raggiungere, segnarsi delle tappe, fare le crocette sul calendario, abbiamo fatto strada anche noi oggi, io devo ringraziare Peter Bescapè in regia, c'è Edoardo Lavezzari in assistenza, c'è Michele Michelazzo che è venuto qui in studio a seguire la messa in onda di questa puntata che abbiamo composto insieme, ci diamo appuntamento a domani mattina con ancora una nuova puntata di Si può fare lezione, ci domandiamo, da Laura Bettini, buon ascolto. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.